L'uso della libertà minaccia da tutte le parti i poteri tradizionali, le autorità costituite. L'uso della libertà che tende a fare di qualsiasi cittadino un giudice, che ci impedisce di espletare liberamente le nostre sacrosante funzioni. Noi siamo a guardia della legge, che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. Il popolo è minorenne, la città è malata. Ad altri spetta il compito di curare e di educare. A noi il dovere di reprimere. La repressione è il nostro vaccino. Repressione e civiltà. Bravo, bravo dottore, complimenti. Fuoco alle polverine. Radio Bomba. E buonasera e benvenuti alla 44esima puntata di Fuoco alle Polveri. Ciao Hario. Ciao Hario. Ciao JP, ciao JP. Anche oggi numerosi. Ah, senti là, muoversi. Cosa si muove? No, io se vado tutto qua muovi. Si sente. Sai com'è? Sai com'è? Funziona così. Esatto. Tutto allora, a posto? Tutto a posto. Tutto a sì, posto, sì, bene. Sì, sì. Tutto a posto, niente in ordine. Siamo numerosi come sempre. Abbiamo la regia. Cav e Grande Lago. Oh! JP alla mia sinistra, come sempre. Evviva. Ti aspetta qui che è pronto in pole position. Buonasera. E Grande Bricco. Buonasera pronto. A tutti. Allora siamo sul pezzo come tutti i lunedì alle 16.30. In realtà 16.40. Va bene. Miglioriamo sempre di più. Allora, 44 come cosa? È roba tua. È sempre roba mia. Gatti. Una fila per sé con il resto di due. Esatto. Quello. Cioè si è svoltata così la No, la vulgata vorrebbe questo. Ma io ho una cosa molto interessante da dirvi. Scherzo. Che nel 40 se no scusa, c'è anche il calibro della Magnum dell'ispettore Callaghan. Esatto. In realtà era una delle mie idee. Te l'ho bruciata malamente. Fuori una. Ho smontato tutto. No, la cosa che mi ha interessato di più è avvenuta nel 44 avanti Cristo. Che è importantissima, secondo me è importante che tutti sappiano che Boudicca, futura leader della rivolta antiromana dei Britanni, sposa Prasutago e diventa regina degli Iceni. È importantissimo saperlo perché ha cambiato veramente le sorte dell'umanità. Grazie. prego, non c'è di che. Allora, a parte questo, andiamo avanti perché mi pare problematica. Allora, iniziamo in modo diverso dal solito. Sì. Iniziamo in modo diverso perché abbiamo un contributo dall'estero, vero Grande Lago? Sì, un nostro ascoltatore dall'estero. Fedelissimo ascoltatore, ci ha mandato un contributo. Oh. E un contributo che parla di un detto. I detti oggi partono in pole position rispetto a partire in fondo, come sempre. Allora, sentiamo. Ciao ragazzi, un saluto da un vostro fan, forse il più lontano ascoltatore di Radio Wombat. Ora mi trovo nella terra dello Wombat, o più famosa come la terra dei canguri, o viene anche chiamata Down Under, che non c'è una vera traduzione, penso forse si può dire sotto, qualcosa del genere. O come salutano da queste parti, G'day Mate, che vuol dire buongiorno compagno. Dovevo salutarci così anche dalle nostre parti. Vi volevo far conoscere un detto, o meglio un gioco di parole, sullo Wombat, che ho scoperto recentemente. Allora, dicono che lo Wombat è come l'uomo. Eats roots and leaves. Cioè vuol dire che mangia radici e foglie. Però in australiano roots viene anche usato per dire scopare, fare sesso, e leaves al solito suono del verbo lasciare o andarsene. Quindi l'uomo mangia, scopa e se ne va. Volevo condividerlo con voi, l'ho trovato molto divertente. E visto che ci siamo, se me lo permettete, volevo provare questa emozione di mandare una canzone e farvi conoscere Questo gruppo australiano, uno dei pochi che ho trovato degni di nota, si chiamano Tame Impala, da Perth, Western Australia, e una delle loro canzoni più famose si chiama Feels Like Only Go Backwards. Ascoltatelo. Ciao, ciao Bellocci, ciao, ciao, ciao. Rieccoci qua. Ciao. Allora, un contributo meraviglioso. Bellissimo, bellissimo. Fantastico, sì. Abbiamo un esempio degli italiani emigrati all'estero, proprio. Sì. La fuga di cervelli. La fuga di cervelli, perché il nostro ascoltatore è sicuramente un cervello in fuga. Che poi sia andato a raccogliere arance è un altro discorso. Salutiamo, lo abbracciamo fortemente comunque. Comunque ricordiamo, Wombat, com'era? It's Roots and It rules and leaves. No, it roots, radici and giusto. leaves. Che c'è, il gioco di parole diceva, perché è come dire per assonanza di significato nello slang australiano, è come dire scopare e, e andare via, sì. Io non lo sapevo, erano scopato le wombat. Evidentemente. Evidentemente. Ci sta, che fare i suoi superpoteri oltre alla cacca cubica. Tipo mangia qualsiasi cosa che trova a giro, fa le buche per terra, tutti lo odiano, tutti lo vogliono uccidere. Si a noi, si a noi. Questo è il racconto. Bello, bello. Che meraviglia. Però fa le cacche quadrate, quindi. Non da poco, ragazzi. L'unico che fa le cacche quadrate. L'unico animale. Fantastico. Allora, ci stiamo preparando per il contenuto caldo. Caldo. Di questa puntata Nel mentre vogliamo ricollegarci, mentre ci prepariamo alla puntata che facemmo l'ultima, se non sbaglio, prima di, dell'estate, per la fine della pausa. Cerchiamo di capire dove puoi andare estiva, a parare. No, no, di questo. Va bene, di ma forse Twitter era tutto show, ma vai avanti. Tutto show, era tutto show. Che parlammo con, anzi intervistammo un compagno di Amburgo, che vive ad Amburgo, che ci raccontò sa che vive a Berlino, però poi si è andato. Sì, esatto. Ah, è vero, scusate, è vero. Vive a Berlino, sì, che aveva partecipato. Infatti ci raccontava del campeggio. Esatto. Che viveva era andato nel giardino di un cittadino qualunque, ecco. Esatto, ha dato disponibilità del proprio giardino. E che ci raccontò, visto dall'interno, la grande manifestazione del G20 ad Amburgo. Sì. E niente, ci ricollegiamo un po' velocemente. No, dici. No. Dici. Che c'è stata anche un'altra. Anche un'altra puntata. A metà ottobre, con musichette buffe, tutto, dove si ricapitolava, insomma, dove si faceva un po' il punto sui fatti di Amburgo. Vero, esatto. Vero, scusami. E oltretutto si parlava della situazione dei. Dei fermati degli arrestati italiani. Sì, che tra l'altro il nostro, insomma, la persona che abbiamo intervistato era tra quelli che era stata arrestata. Esatto, doppiamente però, approfondito. Però fortunatamente vai. Rilasciata dopo poco. Eravamo rimasti che di tutti i fermati a ottobre avevano scarcerato tutti tranne uno. Esatto. Esatto. Oggi, con somma gioia, anche se è un sorriso che sì, è un po' amaro, possiamo dire che anche Fabio Vettorel è libero, per modo di dopo dire. Ben 5 mesi? Praticamente 5 mesi di incarcerazione preventiva. Esatto, di gabbio preventivo. Sì, anche perché il processo deve ancora svolgersi, è comunque appena iniziato, e quindi tutto questo carcere è stato appunto... fermo preventivo, sì, fermo per qualsiasi giudizio, misure di sicurezza per a causa del rischio fuga, così diceva il governo tedesco. Certo. Diciamo che ok, è stato rilasciato, ma sì, come si dice, è rilasciato, torna a casa. Allora puoi uscire, ma cioè, intanto per uscire devi pagare 10.000 euro, cauzione di 10.000 euro, no? Obbligo di dimora in Amburgo. Quindi dicevo, cazzo, torno a casa, finalmente me ne vado a questo posto no. Della merda. No, deve rimanere ad Amburgo. E se non sbaglio, obbligo di firma. Sì, o 3 volte a settimana. E in tutto questo, appunto, anche i 5 mesi già passati dietro le sbarre. Quindi, e in tutto questo, no processo. Ancora no, ancora, sta iniziando adesso. Esatto. Sta iniziando adesso. E tra l'altro su Radio Onda d'Urto potete anche sentire l'intervista alla madre a Giamila. Esatto. E niente, quindi intanto diciamo che viva, che sia almeno è fuori, esatto, fuori dalla prigione. Ok, questa era un po' quello che una cosa delle tante che vi volevamo dire. Esattamente. E possiamo però adesso forse direttamente andare a quella che è il nostro contenuto attuale, quello di oggi, fresco di oggi, che è un'intervista esatto. A più voci, direi, a questo punto. Passo direttamente alla parola. Bravissimo, grazie. A Lillo. Sì. Quindi diciamo che eccoci è una puntata qua. In punta di pedali particolare. In punta di pedali. Vai con la sigla. Bene. Non era brutto. Incontro pedale. Va bene, poi ricorderemo un avvenimento felice, ma ne parleremo dopo. Attenzione, ecco la sigla. No, la deve cercare. Nulla, ce ne sono due. Ce ne sono due, puoi scegliere quella che vuoi. C'è una special e una classica. Qual era la special? Ah, la special era, sì. Ho visto una bella signorina su un bike in punta di pedale. La special, ci siamo sperati. Eccoci qua. Allora, torna in punta di pedali. Che bello, che bellezza. Siamo tutti venuti in bicicletta, vero, oggi? Io sì. Sì, davvero? Davvero. Grande. Io no, sto troppo lontano. Te stai troppo lontano, sì, è vero. C'è troppa salita, poi. Tantissima salita. Va bene, è una puntata particolare. Abbiamo per la prima volta due ospiti in punta di pedale. E eccole qua, ve li presento. Anzi, vi faccio presentare. Si presentano. Buonasera. Buonasera, salve. Allora, il microfono dovete tenere un po' più vicino, se no non si sente niente. Sono finito. Ok, perfetto. Okay. Siamo allora, pratici sulla bicicletta, ma poco al microfono. Giustamente. Vabbè, lo diventerete, dai. cioè, si impara. Allora, intanto sono qua in quanto due partecipanti, diciamo due sì, attivi e sempre presenti alla Critical Mass. Abbiamo già parlato della Critical Mass, sapete tutti benissimo che cos'è. E viene, è una coincidenza, vero? Coincidenza spontaneamente succedente. Esatto, una coincidenza organizzata. È una coincidenza organizzata, esatto. Che si svolge mensilmente. Ogni ultimo giovedì del mese. Si svolge a Firenze, no? In tutto il mondo, si può dire. Esatto, è nata innanzitutto a San Francisco, dove lì si svolge l'ultimo venerdì del mese. Noi abbiamo anticipato di un giorno e esiste ormai da ben più di 25 anni. Quest'anno a San Francisco ha fatto i 30 anni. A Firenze invece dal Social Forum del 2003 esiste una 2002 scusate esiste una Critical Mass fiorentina. Quindi 15 anni. Eh sì. Ha compiuto 15 anni. Abbiamo compiuto 15 anni giusto l'anno scorso. Esatto. Sì. Il mese scorso. Ottobre scorso. Abbiamo un socio distratto. Fra l'altro, io c'è una data precisa. La prima Critical Mass, se non mi sbaglio, è stata il 25 settembre 1992, una cosa del genere, a Los Angeles. Sì. Noi abbiamo fatto a San Francisco, sì, a San Francisco. E è stata fatta qui una Critical Mass che è caduta all'incirca in quel giorno, sembra il 26 o il 24. Sì. E, io ho partecipato a qualche Critical Mass, in particolare all'ultima, e l'ultima è stata un speciale, diciamo così, perché c'è stato un arrivo ben preciso. Sì. Ne abbiamo parlato e siamo arrivati al CPA, dove insomma per l'inaugurazione della nuova cell'officina e una super cena sociale. È stata fantastica, è stato veramente un bel momento, ma non è finita lì. Direi. Assolutamente no, perché appunto la Critical Mass sta cercando di essere più, come dire, di venire più in contatto con tutte le realtà fiorentine e quindi la prossima Critical Mass finirà qui in polveriera. In polveriera. Finirà in polveriera. Ok. Oh, mi sono confuso. Okay. e quindi niente, l'idea è quella di portarla nei contesti sociali, nei contesti di impegno, nei contesti in cui è importante la presenza e la partecipazione. Questo perché? Perché la Critical Mass è un esempio di socialità, di incontro. Dimostra come la bicicletta può essere un momento di socialità alternativa a quella, diciamo, che ci viene imposta dal sistema, e dimostra come per strada si può fare una socialità di incontro e non uno scontro come avviene spesso, no? Nello sclero del traffico quotidiano. Sì, o un disinteresse anche. O un disinteresse, perché tutti chiusi nella propria scatola non si guarda quello che c'è fuori. E niente, quindi questo potenziale di socialità, di comunità, lo vogliamo portare a incontrare le altre comunità che ci sono a Firenze, che come ad esempio il CPA, la polveriera e tutti gli altri a seguire prossimamente. Allora, diciamo che per l'appunto abbiamo visto anche un crescere delle partecipazioni. Io mi ricordo la prima Critical Mass, eravamo in 10 e quasi ci pestavano. negli ultimi anni un po' la bicicletta, per chi l'ha capito, è un po' quello che si può dire un futuro passato, cioè nel senso è un mezzo molto vecchio che però è lanciato nel futuro, al contrario di quanto noi pensiamo possa essere l'auto. Tanti l'hanno capito, abbiamo una grandissima affluenza anche di giovani, anche bambini, io l'ultima volta anche ho bambini, visto, anche genitori, bambini. Esatto, perfettamente, di ciclisti urbani. E quindi abbiamo deciso di coinvolgere il più possibile quello che possono essere le realtà che cercano di fare gruppo invece che di sgregare, come oggi si tende un pochino a fare, diciamo. La Critical Mass usa come scusa la bicicletta, una pedalata che si fa così, una coincidenza casuale, tutti insieme, e allegramente occupiamo le carreggiate della strada, ma ci mettiamo a chiacchierare, non stiamo lì per mettersi a fare scontro, diciamo, con gli automobilisti, ma appunto cerchiamo comunque sia di fare gruppo. Questa cosa cerchiamo, visto l'affluenza, appunto, di portarla in quello che sono rimasti ormai gli ultimi baluardi di aggregazione, cioè centri sociali. Centri sociali, perché prima ci poteva essere qualche bar con qualche vecchietto, qualche circolo arci, adesso stanno scomparendo anche quelli piano piano, in discoteca non si può parlare, in altri locali non si può parlare, quindi quello spesso di cui si parla sono cose futili oppure del tempo. Invece in coincidenze come Critical Mass oppure Polveriera CPA ci sono dei momenti di aggregazione molto più forti, molto più coesi, e quindi stiamo cercando appunto di unire tutti questi puntini, un po' come nelle settimane enigmiste. Certo, è assolutamente un lavoro necessario, direi, visto lo stato della nostra città e anche più se si vuole allargare. E come sta la bicicletta a Firenze? Come sta G? Caro V, diciamo che adesso hanno introdotto questi servizi di bike sharing, ci sarebbe molto da dire, probabilmente anche voi avete già detto qualcosa, vi siete già espressi in merito, non ci esprimiamo anche noi in merito, altrimenti diventa una cosa molto lunga. Comunque sia, la bici a Firenze, diciamo che sta andando bene. Per quanto mi riguarda, avendo vissuto anche in altre città, io penso che Firenze sia una delle città più pedalabili almeno d'Italia, perché diciamo in 3 km quadrati ci sta tutto Firenze, cioè, e quindi da una parte all'altra anche a piedi ci arrivi in 50 minuti, in bicicletta ti ci vuole un quarto d'ora, giusto se vuoi andare tranquillamente. Sì, io al netto delle riserve ho seguito la puntata in podcast, la puntata precedente, ma al netto di quello, i nuovi servizi di bike sharing di sicuro portano una maggiore pressione ciclabile sulla città, ed è il motivo per cui la reazione è così, se notate in giro sui social o anche in giro, no? Questo astio verso queste nuove biciclette arrivate, e fatto salvo quelle problematiche che avevate evidenziato, no? di fondamentalmente di tracciamento e di vendita dati, però dal punto di vista appunto della ciclabilità, nuove persone prendono la bici, sono invogliate a prendere la bici, impattano sulle strade e la reazione, come vedete, è aggressiva. È come se tutta la colpa fosse di queste nuove bici per la strada. Sì, così. È un po' la ciclorabbia, no? che si trova, sì, anche a volte nella Critical Mass, perché, cioè, appunto, la Critical Mass è una manifestazione che in un certo senso crea degli ingorghi, ma è comunque una manifestazione che non è che sta ferma, cioè non è un picchetto, è una cosa che si muove. Però nonostante questo, io ho assistito a tanti casi di automobilisti veramente infuriati, addirittura per mi fai ricordare ieri, non so se avete notato, c'è stata la maratona a Firenze. Sì. Anche la maratona a Firenze ha suscitato una reazione di aggressività. Sì. Cioè, non da questo che poi si può fare un ragionamento su tutta la, diciamo, l'andamento della nostra società, di questa aggressività repressa che più o meno ci sa tutti, però anche la maratona, che teoricamente dovrebbe essere un evento sportivo che si vende bene, ha suscitato anche lì astio, perché ormai c'è questa ossessione che la strada è solo delle macchine, devi arrivare fin sotto il portone di casa o all'uscio del negozio con la tua macchina, e chiunque te lo impedisce è un nemico. Esatto, un po'. Infatti la mia domanda, come sta la bicicletta a Firenze, era un po' nel senso, sono cosciente che Firenze è una città molto adatta perché, per le sue piccole dimensioni, perché tendenzialmente è pianeggiante. Però appunto in questi casi queste esplosioni di rabbia sono più il sintomo di una mancanza di cultura, ecco, di una mancanza il dovuto, certo, approccio, cioè, quindi in quel senso lì io volevo capire un attimino, cioè, sì, è una città pedalabile, ma siamo stimolati a pedalare? Allora, secondo me, io lo dico sempre, più che inserire bike sharing o cose messe lì perché magari appunto possono far comodo a varie realtà. Secondo me prima di mettere un bike sharing bisogna fare un attimo di educazione civile, ovvero una cosa che ormai manca da tanto tempo, che è un po' istruire le persone a vivere con gli altri, ovvero la strada è di tutti, ci sono vari mezzi, tutti devono capire come potersi relazionare l'uno con l'altro. Firenze no, è pedalabilissimo, come ho detto prima, ma non certo per quanto riguarda l'agevolazione delle infrastrutture, esatto. Ovvero le ciclabili sono quelle che sono, e la viabilità è quella che è, per cui noi abbiamo comunque sia dei viali di Firenze di scorrimento che sono utilizzati come se fosse un circuito, quindi anche molto pericolosi. E una cosa che dico sempre appunto è quello: piuttosto che inserire un altro bike sharing, piuttosto bisognerebbe inserire dei momenti in cui te spieghi che esistono anche altri mezzi o come utilizzare il proprio mezzo, quali sono le tue responsabilità nel caso, eccetera eccetera eccetera. Perché al di là del fatto che io lo dico sempre, io ho scelto di prendere la bicicletta perché voglio essere felice quando mi muovo da casa al lavoro, e io sono felice perché effettivamente io so che ci metto un quarto d'ora da casa mia al lavoro e ci metto sempre un quarto d'ora anche se mi fermo a far passare la vecchiettina, eccetera eccetera. L'automobilista ovviamente è una persona che usa l'auto perché l'auto dagli anni 80 è rimasto questo status symbol dell'italiano medio. Probabilmente adesso, se si cambiasse un attimo visuale, si potrebbe istruire invece l'italiano medio di fargli capire che lo status symbol è l'automobile, probabilmente potrebbe diventare la bicicletta. Ecco, e la Critical Mass secondo voi lavora sotto questo aspetto? Nel senso, tende a portare a un cambiamento nelle menti delle persone, a portare la città verso un'opposizione di un luogo di incontro e dove c'è uno scambio di idee, uno scambio di opinioni, uno scambio di emozioni? Allora, diciamo che anche nella Critical Mass non ci sono in realtà dei portavoce, però diciamo ci sono delle persone che da più tempo che frequentano la Critical Mass e comunque sia cercano di educare un attimo anche a quello che è la situazione Critical Mass, ovvero noi stiamo in strada, comunque sia dobbiamo rispettare tutte le altre, gli altri veicoli eccetera eccetera, e il nostro scopo non è andare contro le automobili, non è andare contro gli altri veicoli, il nostro scopo è far vedere agli altri, per quanto ovviamente l'automobilista in quel momento, quando uno prende l'automobile, cerca di andare sempre più veloce. Però quello che capita spesso, soprattutto con i motorini che si infilano dentro, è la curiosità di chiederci che cosa stiamo facendo, perché lo stiamo facendo. E se dalle prime volte c'era sempre comunque uno scontro, adesso c'è questa volontà comunque sia di interessarsi anche appunto da quelle altre parti, e possono essere automobili o scooter o altri veicoli. E questo ci fa capire che bene o male certi messaggi passano non solo all'interno del gruppo di biciclette ma anche all'esterno. Diciamo, alle domande noi rispondiamo sempre positivamente, non cerchiamo sempre di non mandare a quel paese, anche se la prima cosa uno contro l'altro, bicicletta contro automobile, sono due cose opposte, quindi ti verrebbe da mandarla a quel paese. Invece vediamo sempre di più che c'è proprio questa sensibilità di voler chiedere, di volersi informare rispetto alla bicicletta, che cos'è la bicicletta, perché stiamo facendo questa cosa. Io, se posso integrare quello che diceva G, che alla fine, per quanto riguarda la parte interna, no? il fare massa è sapere di non essere solo in strada, e sapere quell'appuntamento mensile ti fa sentire parte di una comunità, ti fa dire la mattina quando vado a scuola, al lavoro o dovunque con la mia bici non sono solo, o faccio parte di un gruppo e magari posso essere aiutato per strada nel caso in cui mi si buca una gomma, qualcuno mi taglia lo stop o roba del genere. Cioè, e iniziare a raccogliere e raggruppare, questo secondo me dal mio punto di vista può fare la massa. Ecco, ma appunto la critica al massa è una manifestazione senza bandiere, senza simboli, senza un orientamento politico. Ma è come il fatto che finisca in queste ultime due edizioni, dice, va a finire in, in luoghi che invece hanno una, un grosso valore un politico. È un tentativo da parte vostra di instradare la manifestazione in quella direzione, oppure appunto voi cercate di prendere la socialità di questi posti? Di sicuro cerchiamo di prendere la socialità. La seconda che hai detto. Perché purtroppo sono rimasti solo questi come punti di aggregazione, che non vogliono far profitto, che non vogliono trasformare lo stare assieme, il fare comunità, non lo vogliono trasformare in profitto. Quindi naturalmente siamo lì. Avrebbe poco senso mettere un colore politico sulla critical mass, perché la critical mass di per sé sfugge qualunque etichettatura, perché in una critical mass ci possono essere persone che vogliono andare in una direzione e altre che vanno in un'altra, e la critical mass decide sul momento in base a chi a chi sta in cima. A chi c'è, che altro, diciamo, non c'è un orientamento politico. C'è un comune denominatore, ovvero, al di là di tutte le credenze politiche dei vari posti dove noi vogliamo andare e cercare di fare comunque sia unione, c'è quello di fare aggregazione. Il CPA fa aggregazione, la polveriera fa aggregazione. Noi la facciamo tramite le biciclette, il CPA lo fa con le scene sociali, la musica, voi uguale. E quindi quello che ci accomuna, diciamo, è questo. Ora, quello in cui noi crediamo è appunto questo, cioè la massa, come diceva prima G, che cerca di fare gruppo per sostenersi. Cioè, questa è la cosa più importante. In questi posti quello che si può ritrovare è che c'è un gruppo che si sostiene. Appunto, c'è questa, io lo ripeto, c'è questa aggregazione, che noi partiamo dal punto della bicicletta. Sì, sì. Voi partite dal punto della radio, di condividere certi contenuti, sì. La polveriera parte con altre situazioni, CPA parte in altre situazioni, ma comunque sia c'è l'aggregazione, esatto, di fondo. Esatto. Io ho letto fra l'altro una definizione di massa critica, e cosa viene inteso per massa critica in fisica. Sapete voi cosa si intende? Sì. Ditecelo un po'. Eh beh, è la massa limite dopo la quale si scatta la reazione nucleare. Io ho letto che è la quantità di materiale fissile necessario per a una reazione per autosostenersi. Sì. Quindi direi che rende piuttosto bene. È importante come definizione. Sì. Ok, allora io volevo chiedervi ancora una cosetta, e appunto riguardo sempre allo status della bicicletta. Ho letto che ci sono delle novità a livello... c'è stata una proposta di legge, anzi sì, una proposta di legge che è passata alla Camera, giusto? Sì. E dovrà andare in Senato, che a detta del ministro Del Rio rivoluzionerà lo Stato e l'uso della bicicletta in tutta Italia, con 6.000 km di piste che connetteranno tutte le regioni, 450 milioni. Che ne pensate? Allora, innanzitutto, come sempre, sì, se ne spera, però... appunto, bisogna vedere come arriva poi la legge definitiva, no? Andrà in Senato, verranno fatti degli emendamenti, sarà modificata, poi ritorna alla Camera. Quindi sono più che altro quei moti di volontà futuribile, che poi bisogna vedere poi come arrivano effettivamente in strada. Quello che temo è che spesso la bicicletta viene usata come strumento di greenwashing, no? di vendere bene, di indorare una pillola. Esatto. Soprattutto in prossimità delle elezioni. È in prossimità, esatto, delle elezioni. È un cliché veramente per un po' far stare contenti tutti, usare la bicicletta, il verde, il green, mettici quello che ti pare, poi in verità... Sì. Butti lì un carroccio che poi non so se neanche chi l'ha proposto, magari proprio la comunità stessa non è in grado di sostenere, perché comunque sia appunto non è stata educata. E prima di una legge sulla mobilità ci sarebbe da andare a guardare per bene il codice della strada e andare a risolvere quei punti oscuri, anzi più che oscuri, equivoci nel, ponte, nel codice della strada, equivoci per ciclisti e per pedoni. Nel senso, il codice della strada in Italia è molto pensato dal punto di vista dell'auto e pochissimo degli altri utenti della strada. Se posso integrare quello che diceva prima V, è che la bicicletta è un mezzo che viene, è un mezzo che viene dal passato e risolve il futuro. Basta pensare, non so se è mai capitato, in alcuni quartieri anni 50 di Firenze erano molto pensati per la bicicletta, perché era la bicicletta il mezzo, pensavo all'isolotto. Molte case dell'isolotto, quasi tutte le case di una parte dell'isolotto vecchio, hanno tutte la discesa in cantina per il parcheggio della bici. Perché? Perché prima era quello lo strumento, certo, quotidiano, e che dopo è diventato un feticcio, un qualcosa di consumo, di stato simbolo, come si diceva. E quindi è quella logica che va invertita, anche perché non se ne può più di respirare fumi. Bene, ragazzi, state facendo un ottimo lavoro. Possiamo ricordare, esatto, l'appuntamento? Esatto, ricordiamo l'appuntamento, importantissimo. Allora, la prossima Critical Mass di novembre, il 30 novembre, quindi proprio l'ultimo giorno del mese. Solito ritrovo 18:30, partenza, cerchiamo di essere sempre puntuali, 19:30. Questa volta finirà alla Polveriera, in via Santa Reparata. Va bene? Con? Allora, questa massa sarà una massa speciale, perché una cosa ci siamo dimenticati di dire, al di là di tutte le cose super burocratiche, eccetera, eccetera, molto importante, stiamo cercando. Allora, partiamo dall'inizio. La Cimona. Allora, aspetta, andiamo all'ordine. Te la posso buttare una bomba veloce così? Sì, giovedì sera finiamo questa. Giovedì sera, allora arrivo in Polveriera. Ci sarà una lotteria, ok? Con i premi in palio, e poi ci sarà vin brûlé e dolci per tutti. Ah, va bene? Quindi se vi volete riscaldare e tentare un po' la fortuna, okay, serviranno parecchi. Tutto questo nella prospettiva di? Tutto questo nella prospettiva, lo dico molto velocemente, la Cimona è diventata una cosa itinerante. Prima era soltanto appannaggio ovviamente di Roma e della città di Roma. Adesso si sta spostando per tutta Italia. Anno scorso Bari, prossimo anno Firenze. Firenze 2018, 2018, l'ultimo fine settimana di maggio. Quindi stiamo cercando con queste situazioni di raccogliere un pochino di fondi, perché non per noi, ma ci sarà da organizzare una bella situazione, una bella accoglienza, e anche volontari che vogliono dare una mano nell'accoglienza. Benissimo, noi con In Punta di Pedale sicuramente seguiremo questa cosa, speriamo. Tutta Radio Wombat, tutta Radio Wombat, che seguirà la faccenda, e sicuramente ne riparleremo poi quando saremo anche a ridosso, penso. Ragazzi, che dire? Grazie mille. Grazie a voi per la disponibilità. Ciao ragazzi. Ciao. Alla prossima. A presto. Oh, sigla o canzone, fai un po'. Dai, farei una canzoncina. Dai, una canzone. Ma una a tema, se non sbaglio, ce n'è una a tema? Ce n'è una a tema? Ce n'è dovrebbe essere una a tema, sì. Speriamo. Dai. Ok. Wombat. Sei la mia chitarra, piange dolce mentre stasera non è sera di vedere gente, e giochi nella strada che ho chiusi dentro al petto, mi voglio ricordare. Io penso ad un barcone rovesciato al sole, in un giorno in pieno agosto, le biciclette in riva al mare, Agnese mi parlava nella sabbia infocata, ed io non so perché non l'ho dimenticata. Lei mi raccontava di quello che la gente diceva del suo corpo con malizia ed allegria, ed io che sto provando le cose che provavo ieri non ho capito ancora. Se è gelosia o se sono prigioniero di questo cielo nero e di un ricordo che fa male. E se continuo a bere i miei ricuori inquinati, è vero che quei giorni non li ho dimenticati. È uscito un po' di sole da questo cielo nero, l'inverno cittadino sembra quasi uno straniero. Agnese dolce, Agnese, color di cioccolata, adesso che ci penso, non ti ho mai baciata. Rieccoci, evviva. È bello questo sottofondo, non vorrei, so più cosa fare. Esatto, ma no, so che sottofondo bello. Appunto, sì. Per ascoltiamo il sottofondo e non parliamo. Il sottofondo. Neil Young. Ma cos'è? Ah, ecco. Dalla colonna sonora di Dead Man, film Jim Jarmusch. Wow. Bellissimo. Wow, wow, bellissimo. Wow. Volevo portare per questa puntata 44 Child. L'hai visto? Ah. No, non l'hai visto. Maledetto. Che si fa, si glissa? Allora, sì, glissiamo su questa cosa. Sì, sì. Allora, affrontiamo la, della serie delle cose avvenute nella settimana scorsa, avevamo un po' di quello che avevamo parlato, oppure no? Per bilanciare la rassegna eventi che parla del futuro, parliamo di quello che è stato, esatto, la settimana precedente. E è successa una cosa pesa. È successa, sì, cioè è successa una cosa pesa. Cioè, la settimana è stata la settimana, è finita la settimana del Black Friday. Black Friday è quel giorno, quel venerdì prima in realtà del ringraziamento. Sì, che poi diventa dopo il ringraziamento. Dopo il ringraziamento, in cui sia negozi fisici sia soprattutto negozi online fanno degli sconti in massa, insomma, fanno tutti i grandi sconti. Sì, sì, sì. E si scatena, sono il giorno, è un po' il compleanno del consumismo in cui tutti. Sì, sì, esatto, è il giorno del come si dice, del cercare di uccidere gli altri, fondamentalmente, pur di accaparrarsi. È il giorno delle scene americane, sì, di calche, si contano i feriti a fine, esatto, giornata. Talvolta anche qualche morto di South Park che parla del Black Friday e pazzi che imita The Walking Dead. Però infatti stiamo tirando fuori la tragicità di questa giornata, che parte dal appunto dalla civiltà che scompare, dal non saper più stare vicino agli altri, dalla truffa che è il Black Friday in sé, cioè alzare i prezzi di listino per poi dire fai uno sconto pazzesco, ma anche quello non per forza, non è semplicemente concentrare gli ordini in un giorno, poi conviene esattamente ai magazzini, alle aziende. Ma il punto non ai logisti. Esattamente, il dato che vogliamo rilevare è questo. Esatto, sì, anche perché forse sono i primi anni in cui anche in Italia. Prima io mi ricordo che i video degli assalti, piuttosto che le cose appunto che si guardavano su internet, perché era una cosa prettamente americana. Ridendo degli americani. Ridendo un po' di questi babbei che si spaccavano la faccia per un televisore. Negli ultimi anni, visto anche l'allargamento globale di certi festeggiamenti, fenomeni del genere, esatto, abbiamo visto anche in Italia, soprattutto nel mercato, e di conseguenza delle sue stranezze poi anche, abbiamo visto come si è allargato anche in Italia sia il fenomeno della vendita con sconto durante quel giorno, sia poi della rincorsa agli acquisti. Ora io non ero da queste parti, noi non eravamo da queste parti. Sì, ma non saremmo comunque stati in fila per fare queste cose. Volevo dire assolutamente questo, volevo dire che nella città in cui eravamo, cioè Madrid, era tutta la città era incentrata su quello. Davvero? Tutto il era tutto focalizzato su quello. Non ho visto qua, ma mi faccio immaginare. Poi quello di cui volevamo parlare un po' più approfonditamente, o comunque accennare, poi vi andate a vedere da soli come sono andate, è un po' la questione delle proteste che ci sono state intorno a questa giornata e soprattutto intorno alla logistica. Esatto. Diversi scioperi. Se non sbaglio, i più importanti sono stati Amazon, sì, cioè il reparto ovviamente della logistica di Amazon e quello di DHL, dove sì, peraltro è stato, correggetemi se sbaglio, messo sotto volontariamente un manifestante. SDA di Modena e Amazon di Piacenza. Di Piacenza, esatto. Appunto, sono stati quelli forse più con maggiore rilevanza mediatica anche in Italia. Sì, ne hanno parlato un po' ovunque, insomma, è venuto fuori anche con commenti assurdi. Cioè, sì, mi immagino. Tipo, esatto, cioè, del tipo, vabbè, però loro si prendono comunque i loro 1000 euro al mese, questo e è il lavoro, c'è la crisi, devono ringraziare se possono, esatto, lavorare. Mentre chi ha chi ha messo la faccia dei lavoratori di Amazon in questo caso per questa protesta qua, recrimina il fatto che hanno problemi grossi sia fisici, a livello di appunto fisico, cioè di distruzione del corpo proprio, sia a livello mentale, e il mancato pagamento degli orari notturni, certo, di un sacco di roba, no, insomma, sì, fuori di testa, che non va bene, punto. Cioè, non è che non si parla né di... Nello specifico, Amazon non è neanche nuova, cioè è da più o meno da quando esiste, che porta avanti una politica nei confronti dei propri dipendenti di, ma certo, sì, sì, puro sfruttamento, mi verrebbe da dire puro sfruttamento, sì, davvero, sì, sì, perché sì, ma così in Italia, ma prima in Germania, mi ricordo in Inghilterra c'era la prima grossa fu nel 2015 in Germania, poi in Inghilterra l'anno dopo e quest'anno in Italia, ma comunque anche quest'anno ci sono state anche in Germania, numerose città hanno scioperato, comunque Nassi, in Sassonia, in Baviera. Negli ultimi anni sono usciti anche molti reportage anche dall'interno, in cui i giornalisti, senza telecamera diciamo, ma si sono fatti assumere da dei magazzini Amazon, soprattutto in Germania, per poi raccontare quello che è il trattamento e la vita quotidiana. Non è un trattamento speciale, è proprio come funziona l'Amazon tablet, l'Amazon, sì, contapassi, l'Amazon, tutto. Il New York Times aveva fatto una inchiesta, che poi Amazon si sbrigò a smentire, a dire no, è tutto, certo, inventato, è tutto fasullo, certo, tipo, ma è vero, cioè quanto dicono almeno i giornalisti del New York Times, fece proprio quello che dicevi te, cioè si intrufolarono dentro, sì, l'azienda e, sì, e per raccontare appunto cose dossier, che fino a pochissimo tempo fa non uscivano, nel senso che Amazon non permetteva ai sindacati di entrare, quindi nemmeno probabilmente di parlare con, se non all'esterno, con i delegati. Adesso invece sono riusciti ad entrare, e non è un caso che stiamo iniziando a vedere adesso le prime proteste, perché appunto i lavoratori possono iniziare a richiedere determinate, non li chiamo nemmeno diritti, perché il fatto di poter andare in bagno, cioè stiamo parlando di cose, diciamo, che il rispetto che quantomeno delle norme arrivati, fondamentali, boh, dei diritti umani, sembra che ci eravamo già arrivati, però non si smette mai di scoprire delle cose. Beh, in generale c'è un passo indietro, evidentemente, ne parliamo tutti i giorni. Dunque, piccolo appunto, ricordatevi che quando fate click su acquista ora di Amazon e lodate la velocità dei tempi di consegna e quant'altro, bene... No, certo. Ovviamente c'è lo state facendo sulla pelle di qualcuno. Sì, sì. Poi non vogliamo dire con questo che gli altri magazzini di logistica siano dei posti dove il lavoro, anzi, in generale i magazzini di logistica sono adesso forse uno dei dei luoghi dove si concentra più visibilmente lo sfruttamento sul lavoro. Nel libro che ricordavamo la scorsa settimana, che avevamo presentato a Firenze a Fai Rivolti, Marta Fana, non è lavoro e sfruttamento, si parla molto a lungo della questione della logistica e delle condizioni, quindi anche andate a leggere anche quel libro. Insomma, ricordiamoci che un anno fa c'è stato un morto. Eh sì. Sì, evidentemente sì. La situazione, no, tra l'altro, appunto, come dicevamo durante il picchetto davanti a SDA di Modena, c'è stato, insomma, due persone sono state investite da dei camion, cioè esatto. Che ti bloccano i camion che escono e i camion non si fermano, cioè questo fatto qua, a meno che non ci siano veramente tante persone, i camion non si fermano, schiacciano le persone che manifestano. Si parla in generale in tutta Amazon, quindi nel mondo, il 10% dei lavoratori ha scioperato. Ok. Che no, è tanto. Durante tantissimo, Black Friday? Ragazzi. Sì, oh. Sì. E quindi, come, non hai? La sigla di Nozioni Inutili, se lo vuoi dire a microfono. Le sigle latitano. Comunque, niente. Ci sono diversi articoli su internet e sono usciti forse anche su altri luoghi, non so. Non so se sui cartacei quanto spazio si è trovato per gli scioperi durante Black Friday. Comunque andate a cercarvi un po' di cose sia sulle condizioni di lavoro sia sulle queste nuove forme di protesta che stanno nascendo nei luoghi dove lo sfruttamento negli ultimi anni si sta concentrando. Non c'è la sigla. E comunque io vorrei dire che per me il Black Friday è un brano di Megadeth e basta. Beh. Giusto. Tanto bene. Non c'è la sigla? Non c'è la sigla, non c'è la sigla. Vuoi ti annunciamo noi con le nostre voci squillanti. Se no me la cantate, no? Non... Attenzione José. Ok, È il cambio di base. Non c'è inutili. Ufficialmente non sono inutili. E siamo arrivati alla seconda stagione. E qui mi stanno dicendo bassa la voce perché hai appena ucciso metà degli ascoltatori. Sì. Però l'entusiasmo è tanto. Vedo. E questa seconda stagione che si è conclusa con la prima stagione che si è conclusa con i fuochi d'artificio, no? Se vi ricordate, con il nostro imperatore cinese che è esploso. Certo. E adesso invece si apre con una torcia olimpica. E direte voi, che Olimpiadi? Le Olimpiadi dei record, ma non dei record degli esseri umani, di quelli non ci frega assolutamente niente. Nulla. Ma parliamo dei record animali. E quindi tornano i nostri amici animali. Mi piace. E quindi iniziamo subito, direi, alla prima categoria, la categoria della velocità. Abbiamo per... Cioè, aspetta un attimo, scusami, Carlo. Ma te hai fatto hai fatto un prospettino sui record animali. I record animali. L'ha trovato. Questo mi piace. Questo mi piace. Allora, ancora meglio. Per la velocità, ottimo. Abbiamo tre sottocategorie. La categoria terrestre la vince l'Acinox iubatus. Che cacchio è? Cos'è? Conosciuto anche come ghepardo. Vabbè. Facile. Che riesce a percorrere 114 km orari. Borda. Con 7 falcate al secondo. Per la sottocategoria marina abbiamo l'Istioforus. Ovvero? Boia. Sette. No, l'animale. Per la sottocategoria marina abbiamo l'Istioforus. Ovvero? Conosciuto come pesce vela, che riesce a percorrere 110 km orari sott'acqua. Cazzo! Quanto? Scusate. 110 km orari. Quanto un ghepardo, quindi? Quasi quanto un ghepardo. E poi a reazione. Poi, veramente l'incredibile Falco Peregrinus. Giusto. Falco Pellegrino. Questo lo capiamo. Bene. Che riesce a fare delle picchiate tra i 2 e addirittura i 300 km orari. Quindi vabbè, picchiata, intanto un bel applauso per i velocisti. Grazie. E adesso passiamo invece al record di immersione e apnea. Perché il Physeter catodon, ovvero il capodoglio. Oh, ci piace il capodoglio, vero? Riesce a immergersi fino a 2000 metri per più di un'ora. Ciao ragazzi. Quindi direi un applauso per il capodoglio. Un grande applauso, clap. E poi ovviamente passiamo al salto in lungo. Perché abbiamo la rana del Nilo, detta, cioè il nome latino è Rana Mascaraniensis. Sì, okay. I nomi latini ci piacciono. Salta, ora salto di nuovo sulla sedia. E riesce a saltare 100 volte la sua lunghezza, per 5,35 metri. Che in equivalente, diciamo, è come se noi riuscissimo a saltare 170 metri. Quindi va bene. È un bel balzo. Io ci riesco. Sì, sì. Lo sapevamo. Beh, il grande drago può fare questo e altro. Oh, c'è le ali. E poi passiamo al salto in alto. Perché abbiamo la Ctenocephalides felis, ovvero la pulce del gatto, oh, che riesce a saltare 33 centimetri, ben 165 volte la sua lunghezza, che è di 2 mm. Poi passiamo ovviamente alla maratona. Attenzione, qui okay, abbiamo un grandissimo record, perché l'Apus Apus, conosciuto anche come rondone comune, percorre ben 900 km al giorno. E in questi... A rondine. Il nostro rondone percorre 900 km al giorno. In volo riesce anche a accoppiarsi e dormire. Ah, quindi vedete, fa molto meglio di noi, cioè... Te tu ci riesci? Io? Sì. Ah, bravo. E sarebbe comodissimo. Attenzione, nella sua vita percorre 4,5 milioni di chilometri, che è la distanza di 6 volte dalla Terra alla Luna. Ma le tue fonti sono certe? Sono certe. 4,5 milioni di chilometri. Da focus.it. 6 volte la Terra alla Luna. Probabilmente mentre passa alla Luna saluta Wanu, che sta sulla foscura. No? Certo. E poi abbiamo il trascinamento pesi. Oh, bello. È il coso? Il ruzzo la merda. Bravo. Esatto. Una particolare specie che si chiama Ontophagus taurus, sì. Quindi lo scarabeo toro. Stercorario o ruzzo la merda. Stercoraro o stercorario? Stercorario. No. È orario, ogni ora. Esatto. E riesce a trascinare 1141 volte il suo peso. Madonna. Che è come se noi trascinassimo 6 autobus a 2 piani pieni di persone. L'hanno assunto Amazon. Ricordiamo, dice, il nome comune, Ruzzo la merda. Ruzzo la merda. Lui, bella bestia. Però attenzione, e qui si arriva veramente al campione dei campioni. Oi oi. La canocchia pavone. Odontodactylus scillarius. Ok. E voi direte, che cazzo è sta canocchia pavone? Mm. La canocchia pavone è un crostaceo che vive in profondità e ha due record, non uno, due. Vabbè. Il primo record è quello che balza più agli occhi, ovvero che riesce a tirare un pugno, il pugno più potente in assoluto, sulla faccia della Terra, con un'energia di 100 volte il suo peso e una potenza superiore a quella di una calibro 22. Ah, ma è quello lì che spara il getto? Praticamente ha una sorta di meccanismo pneumatico all'interno del braccio. Aspetta, riesce a spaccare i gusci dei crostacei. Tu non e lo addirittura sai, i vetri degli acquari. Tu non lo sai, caro, dicevo. Ma il nostro amico Grippo, mi pare, abbia dedicato diversi minuti in questa trasmissione a parlare di questo animale, ai primordi di questa trasmissione. Ecco, vedi, e ritorna. Ricordiamo il nome dell'animale, come si chiama? È la canocchia pavone. Canocchia pavone. È un bellissimo crostaceo, abbastanza piccolo in dimensioni, molto molto colorato. Però sia anche uno degli le dimensioni non contano. Il nostro amico Grippo lo chiamava assolutamente il granchio pistola, è la stessa bestia. E l'altro record? L'altro record, oltre a spaccare i vetri degli acquari, perché ci riesce, ha anche, diciamo, questo era il record più, come dire, appariscente, ma come c'è scritto nel Piccolo Principe, l'essenziale non è visibile agli occhi, ma in questo caso lo è visibile agli occhi della canocchia pavone, perché gli occhi della canocchia pavone sono molto particolari, oltre a essere due occhi semoventi, che diciamo sono uno indipendenti da quell'altro, si possono muovere uno in una direzione e uno in un'altra, e segmentati come quelli delle mosche. Ah, boia. Oltretutto hanno una particolarità: l'occhio umano di solito ha 3 fotorecettori, la canocchia pavone ne ha 16. Boia. E allora si riteneva che riuscisse a vedere 16 colori primari, che sarebbe una cosa assurda. In realtà pare che non sia proprio così. Pare che invece questi fotorecettori riescano a fargli percepire alcuni spettri specifici nell'ultravioletto. Questo qui sarebbe il miglior sistema di rilevamento di ultravioletti in natura. Quindi basta chiedere a lui, insomma. Quindi c'è qualcosa da chiedergli. E chissà come ti risponde. Quanti ultravioletti ci sono qui? Di pistoletta. E quindi sì, abbiamo tutti questi bellissimi record. Ovviamente ce ne sono anche altri, ma diciamo ho voluto prendere quelli belli, più eclatanti. E direi che la puntata si conclude qui. Io direi, facciamo un grosso applauso ai nostri concorrenti animali. È vero, non è vero che la puntata finisce qui, dura ancora un'oretta. No, la rubrica la puntata di nozioni inutili, ovviamente. Vivi di complimenti per questa. Bella, bella, ci hai stupito. E quindi ci rivediamo la prossima settimana. Se tu avessi sigla, diremmo sigla. Nozioni inutili. Nozioni inutili. Che? La sigla. Eccola. Nozioni inutili. L'hanno portata ora. Nozioni inutili. Nozioni inutili. Nozioni inutili. Meglio tardi che mai. Bellissimo. È il sotto che veramente eccezionale. Stupendo. Allora, vogliamo ricordare una cosa importante. In questo momento di felicità, che domani, che sarebbe domani? Domani? No. 27. Guarda, no, questo è il post che abbiamo messo la prima volta. Sì. Ma la prima puntata vai sopra. Che è questa? No, è questa la prima puntata. Questa cosa? La prima puntata del Fuoco alle Polveri avveniva il 28/11/2016. Ma quindi, ma domani è domani, ma domani domani sarà oggi. Esatto. Senza dubbio. Abbiamo ragione, perché non ti capiamo, ma non ti preoccupare. Comunque sì. Ecco, prendiamo di fuori le polveri domani. Esatto, quindi grande. Quindi festa grossa nelle vostre teste. Esatto, sì. E a casa di Tuco anche, poi diamo l'indirizzo. A casa di tutti, io direi. Nella casa degli italiani e degli australiani e di un po' tutto il mondo, esatto, si festeggerà l'anniversario. Dai, di Fuoco. Bello, viva. Viva. Siamo noi tutti molto contenti, 44 puntate in 12 mesi. E viva. Tese, ringraziamo Radio Wombat per la certo, per la possibilità, per tutto, per tutto, per tutto, tutto. E viva. E direi di passare un bel pezzaccio nel frattempo. Senza pietà. Cosa ci fai gustare? Ah, un gruppone torinese noto ai più come Fluxus. Fluxus. Il pezzo è Nessuno si accorge di niente. Wombat. We'll be right back. sbagliate, immagini violente che non servono a niente, file di caschi dietro a barricate spente, sequenze di numeri e mercanti drogati, sostanze mescolate, micidiali derivati, i loro di sogni scatolati e controllati, mentre nessuno si accorge di niente, mentre nessuno si accorge di niente, mentre nessuno si accorge di niente, perché nessuno si accorge di niente. Ma siamo sempre persi a cercare noi stessi. Ma noi non ci siamo, a malapena esistiamo. Ci interpretiamo, ci guardiamo e moduliamo ogni riflesso, che non è sempre lo stesso, che non è sempre lo stesso. Attento, che non è sempre lo stesso, che non è sempre lo stesso. Attento, che non è sempre lo stesso, che non è sempre lo stesso. Che non è sempre lo stesso, mentre nessuno si accorge di niente, mentre nessuno si accorge di niente, mentre nessuno si accorge di niente, mentre nessuno si accorge di niente. Pezzo per noi qui su Radio Wombat, Fuoco alle Polveri. Ore 17:44. Peraltro, grazie. Quello che stiamo sentendo ora di sottofondo invece è la cover dello stesso pezzo rifatta dai Marnero, che consiglio di ascoltare a tutti per rilassarsi in un momento di relax figa. Prima di andare a letto, prima di andare a letto. Ovviamente, ovviamente. Esatto, pieni di energia e felicità qui a Fuoco alle Polveri, non solo per Marnero, il nostro... sì, per chi se lo ricorda. Gruppo che ha suonato anche in occasione della prima serata del Borda Fest. Borda. Vero. Cose bellissime per noi e per tutti. Tu eri felicissimo sotto il palco. Sì, mi sono addormentato. Oh! Ero molto stanco durante questa roba. Hai un bel... cioè, se riesci a addormentarti in situazioni niente male. Io di solito vado a dormire con questa musica anche. Non so, la mia cameretta allora. È la prassi, è la prassi. È così, sì. Bene. Vabbè, niente, io dicevo momento di felicità, ma è stato stroncato il mio... No, sto scherzando. No, certo. Sto scherzando. Comunque, volevo semplicemente dire, la felicità non finisce qua, perché c'è un grande ritorno. Sì. Su queste frequenze. Un grande ritorno. Un ritorno. Siamo pronti? Siamo carichi. Non abbiamo la sigla. È un ritornone. Aspetta, forse ce l'abbiamo la sigla. Ma davvero? Non lo so. Esiste? Vediamo. Vediamo. Non esiste. Non esiste. E là non ce l'abbiamo. Oh, ecco. Di cosa stiamo parlando, caro JP? Stiamo parlando della sigla dalla rubrica, dal titolo più lungo di sempre, che qualcuno leggerà adesso, perché io Lazzi, tra Lazzi, Scazzi, facci, facezze e faccende da Firenze, penso, una cosa del genere. Guarda, secondo me un buon 90% l'hai beccato. Esatto. L'obiettivo faccine era e faccette. Eccomi. Ciao, molto Mario. Simile, molto ciao simile. Mario. Ciao amici. Ciao. Allora, ricordiamo brevemente come funziona questa rubrica. Sarà introdotta ogni volta da un pezzo diverso che ne annuncerà un po' il tema, la sostanza e l'estro. Ottimo. Ci siamo. Sono scesi dal cielo e si sono attaccati alle nostre porte, ai nostri pensieri, ai nostri parapresi. vestiti di notte con le scarpe rotte, sbucati come funghi sotto gli alberi semafori. Ufo su Firenze, ufo su Firenze, come il marziano a Roma. Ufo su Firenze, ufo su Firenze. Ebbene, ebbene, ebbene. Oggi ci parli di avvistamenti. Non fosse altro che perché la Toscana è dal 2010 a oggi la terra in cui si sono verificati il maggior numero di avvistamenti di oggetti non identificati. Ma in Italia o nel mondo? In Italia, in Italia. Ah, okay. Il 40% dell'Italia. Ma comunque è roba, il 40%. Mentre invece è la seconda regione a livello nazionale da quando si è iniziato a registrare questa... questa classifica di avvistamenti. Sai per caso qual è la prima? Il Lazio, per 5 di vantaggio, ma comunque è dagli anni 70. È dagli anni 70 che posso dire una cosa prima di lasciarti il piede libero al Lazio, entra al Lazio. 44 non è anche il numero che porta Hamilton? Porta Hamilton, molto bene, molto vero. Molto bene? E non solo, è lo stesso numero che ha deciso di mantenere l'anno a venire. Non fosse altro che perché... Metti un attimo... Scoop questo. Parentesi. Non volevo. Che sta succedendo? Ho fatto un cambio. Ah. Eccomi. Ecco. Strano sei. Che vuole? Non ce l'abbiamo. Niente, scusate, colpa mia. Solo e soltanto colpa mia. Intanto hai annunciato a tutti gli ascoltatori di Radio Wombat che Lazio Entra Lazzi e Maldonado sono la stessa persona in realtà. Perché ci volevo io. Scusate. Eccola. Ah. Cosa aspettavo? Allora è successo. Der Start. Dai. Nur noch 100 in 2 Sekunden. Los geht's! Hamilton ha vinto il mondiale in grande stile ad Abu Dhabi. Che tamarra la gara di Abu Dhabi. Allora c'è un albergo gigante che ha forma di balena con tutte queste piscine sui tetti, una cosa gigantesca. Comunque la balena secondo me è rasoio. Perché ieri mi è capitato di guardare Possiamo approfondire dopo. Facciamo rapidamente questo excursus sul fatto che Hamilton ha deciso di mantenere il numero 44 anche per l'anno a venire. Perché funziona così: chi vince può scegliere di avere il numero 1 nelle Formula 1, okay. Perché almeno se la sminchia per tutto l'anno a venire. Hamilton ha detto no, me la sminchio col 44 lo stesso. E per celebrare la sua quarta vittoria mondiale ha fatto un casco d'oro e ha corso la scorsa gara con un casco tutto d'oro. Che tipo è? Sì, è veramente un tamarro. Proprio in contrasto io in questo mondo. Francescano mi verrebbe detto. Pauperista. Bene, allora ritorniamo a UFO su Firenze. Questo è un colpo di scena che neanche Fight Club, veramente. Comunque, è successo che in Toscana si sono verificati il maggior numero di avvistamenti ufologici dal 2010 ad oggi e negli ultimi anni, fra l'altro, sempre di più. Ma non è di tempi recenti che parliamo, bensì di tempi andati. In particolare, parliamo del 400. Nel 1400 e qualche cosa, Jacopo del Sellaio, o secondo altri... Sebastiano Mainardi, è opinabile la cosa. Ok. Avrebbe ritratto qualche cosa di assolutamente singolare, attualmente conservato nella sala di Ercole di Palazzo Vecchio. Se andate e voi cercate questa opera, che si intitola... C'ho gli appunti, amici. Mannaggia. Eccola là. Madonna con Bambino e San Giovannino. Lo potete fare adesso, fra l'altro, vai, se avete subito. Voglia. Sì, facciamolo in diretta anche agli ascoltatori. Com'è, Madonna? Con Bambino e San Giovannino. Ma io già vedrete un'opera con una Madonna, con un bambino e accanto San Giovannino. Niente di speciale, non fosse che sullo sfondo a sinistra, nei colli che si intravedono sfumati in orizzonte, si vede un pastore, la sagoma di un pastore con accanto a un cane. Cane, hai visto? No, mi è partito internet. Ora è tornato. Pensavo fossi stupito da... No, io sono stupito. Ah, eccolo, sì, famoso. Un po' famoso. Falsa, mi è piaciuta più quella di prima. E che indica questo oggetto nel cielo luminescente, grigiastro, a forma ovoidale. Mille dettagli poi se vi andate a vedere le altre immagini. Sì, ce ne sono numerosi, hanno zoomato. Palesemente una vagina. No, attenzione, anche esiste un documento del Circolo Ufologi Italiani, o come si chiama, che lo descrive. Dice: si rileva chiaramente la presenza di un oggetto aereo, color grigio piombo, inclinato sulla sinistra e dotato di una cupola o torretta, apparentemente identificabile come un mezzo volante di forma ovoidale in movimento. E infatti, se vedete, c'è delle luci intorno a arancioni. Non solo in tempi andati come nel 400 si avvistavano UFO, ma anche in tempi più recenti, per esempio nel 1954. In particolare il 27 ottobre alle 14.07 del 1954. Il cosa d'ottobre? 27 d'ottobre. Attenzione anche. Chi la vide? Abbiamo un cambio. Switch. Vai. Si riparte. Giusto. Il 27 ottobre del 1954 allo stadio di Firenze si disputava la partita, al stadio comunale che sarebbe stato poi intitolato in seguito ad Artemio Faranchi, mitico presidente della Federcalcio, guardate che cazzo ho imparato per fare questa rubrica. Si disputava la partita Fiorentina-Pistoiese, una cosa del campionato riserve, una competizione che ad oggi non esiste più. Sì. E c'erano 10.000 persone a vedere questa partita. Alle 14.00, pochi minuti prima, fu avvistato di fronte sopra il Duomo, alla cupola del Duomo, questo oggetto che aveva una specie di forma che viene descritta alternativamente come ali di gabbiano o sigaro. Venne descritto da molti che lo videro alle 14 sopra il Duomo e in seguito alle 14.07 sopra lo stadio, ben 10.000 persone, al punto che tutti i giocatori delle squadre in campo, incluso l'arbitro, si fermarono. Tutto tacque e sopra la maratona c'erano queste forme aeree che stupirono tutti al punto che la partita si bloccò e non riprese più. Fra i tanti che c'era un cronista della nazione, il capocronista, da qualche parte mi sono appuntato il nome, non c'ho troppi appunti confusi comunque. Ma bravo, no, Magnini è il calciatore, arriva dopo. Comunque c'era questo cronista della nazione che aveva visto tutto e descrittolo. Giorgio Batini, può essere. Capocronista della Nazione, che descrisse con perizia di particolari questa cosa e addirittura raccolse alcuni dei filamenti che furono lasciati a seguito di queste apparizioni. E poi le ha date alla CIA. Infatti, non esiste. Dici. Questi frammenti conosciuti come bambagia silice. Beh, abbiamo un esperto. O capelli d'angelo. Sì. Abbiamo un esperto. Poi dopo farò un altro piccolo appunto. Allora era successo questo è il pezzo. A un certo punto tutti vedono sopra la maratona questi oggetti che sembrano o a forma di ali di gabbiano o a forma di sigaro. Tutti si fermano a guardare, la partita cessa e pochi minuti dopo iniziano a piovere questo laniccio che si ferma tipo biancastro, che si deposita anche sui tetti delle case, sulle auto, sulle persone e che sembra davvero come fosse neve all'improvviso. Tra l'altro il movimento di questi oggetti è stato descritto come arrivano a tutto fuoco da verso Rovezzano, si fermano al Duomo, arrivano a tutto fuoco sullo stadio, si fermano lì, ce ne stanno 4-5 minuti e poi puff, spariscono andandosene via velocissimi verso in direzione Mugellana. E volevano vedere la partita, poi hanno detto sono fermati tutti. In effetti è plausibile, anzi l'aggiungiamo. Ha fatto Jack, l'hai messo l'invisibilità? No, cazzo! Via! Il fatto di questi lanicci comunque è singolare, perché queste hanno dato adito a varie possibilità, a varie ipotesi. La più accreditata per lunghi anni è stata quella che fossero ragnatele e che quello che si sono stati avvistati in mezzo al cielo fossero dei ragni in migrazione. Perché infatti pare che esistono una serie di specie di ragni. No, non sono ragni giganti. Sono tanti. Sono tanti, sì. Che fanno. Ma ho scoperto anche questo. Se pure vi cercate sta roba su internet, vedete questi prati completamente coperti di ragnatele che cuciono i ragni e che possono essere larghe pure decine di metri. Che li fanno volare tutti insieme. Metti 6.000 ragni attaccati a questa giga ragnatela che hanno cucito tutti assieme. E migrano e vanno verso i paesi caldi quando arriva settembre-ottobre. Ma come fanno? Col vento? Sì. Col vento, sono trasportate dal vento. Il fatto è che questo fenomeno è forte in Nuova Zelanda, in Oceania, cioè non in Italia, che fra l'altro non è che si registra tipicamente. Non di meno sembrava essere questa una spiegazione possibile e che questi capelli d'angelo bambagia silice potessero essere dei filamenti di ragnatela. In verità sono stati analizzati perché come dicevo il cronista della nazione li ha presi e li ha portati all'ufficio dell'università che faceva tutte le analisi chimiche e roba. E hanno poi un incendio li ha distrutti, quindi non esistono più, ecco, quello che pareva in futuro. Però quello che è rimasto è stato comunque un'analisi che diceva che sono a base silicea, mentre in realtà il silicio non è presente nelle ragnatele d'angelo, nelle ragnatele dei ragni, che sono invece tipicamente a base di carbonio, azoto e non mi ricordo quali altre robe. Quindi non torna tanto che fossero veramente ragnatele. Dici. No, prego, continua pure, poi farò i miei... Ho un'altra possibilità in realtà che è stata data, che questo almeno devo leggere perché proprio non mi ricordo il nome di quella roba americana, come si chiama. Che tamarrata sotto hai messo? Che hai messo, Marchino? È sempre... così va a finire. Cioè va a finire così. Perché nessuno l'ha mai ascoltata fino in fondo. Chaff, si chiama Chaff questa roba, che sarebbe stata inventata proprio negli anni 50 e sarebbe una specie di spuma che lasciano gli elicotteri e gli aerei per non farsi puppare dai missili telecomandati dagli altri aerei o lanciati terra-aria. Che fanno tipo questa cortina di fumo che inganna i radar, i missili si vanno a schiantare contro questa cortina, la bucano, non succede niente, e gli aerei se ne sono già sfangati. Pare che proprio in quegli anni si sia iniziato a sperimentare questa roba, eppure questa roba sia a base silicia. E quindi ci sta, cioè è una delle ipotesi accreditate che proprio in quei mesi, in quei giorni si stesse... Camp Derby c'era già nel 1954? Sì, sì, penso proprio di sì. Guarda un po'. Comunque devo dire, a guardare dalle immagini dei ragni in migrazione, in effetti la... si vede distese in Australia tipo un pezzo di prato completamente ricoperto di bianco. Sono forte. Proprio per la caduta, è chiamata anche pioggia di ragni. Però quelli so in Australia, cioè in Italia tipicamente non si però vede. Come ben sai, alla fine può succedere per qualsiasi visto, sì, motivo. Però a parte tu hai già dato la spiegazione della questione silicea, quindi non no, è una possibilità, cioè anche perché poi in realtà pare che in quei giorni, in quella settimana siano stati avvistati un sacco di cose simili proprio in Toscana, e quindi è plausibile che sia stato qualche cosa del genere. Non di meno tutti i testimoni, fra cui appunto calciatori come Magnini che abbiamo citato prima, storico terzino anche della nazionale, ma guardate che cazzo ho imparato veramente. Bravissimo, guardate. È successo che tutti dicono che è stato un incontro, una forma di vita intelligente. I testimoni del 1954 non ci credono, insomma, a questa spiegazione militare. E tra l'altro io faccio due approfondimenti. Il primo, cioè nella clipeologia, che sarebbe diciamo uno studio degli UFO nell'antichità, ci sono altri casi di bambagia silicea, uno nel 1600 qualcosa in Giappone. Un oggetto di forma sferica, rosso, avvistato, e poi questa caduta di bambagia silicea, un altro è avvenuto, se non sbaglio, a Roma, sempre più o meno nello stesso periodo. E l'altro approfondimento è che di solito si parla sempre del pilota, dell'avvistamento dei dischi volanti, no? Come negli anni 40, 47, no, 45, 6, quando fu Kenneth Anger, il pilota che vide insomma i famosi dischi volanti, da lì venne fuori tutta la cosa. Ma in realtà la cosa curiosa è che il primo UFO fotografato nella storia è di forma cilindrica, quindi corrisponderebbe anche... suffraga! Corrisponderebbe anche alla descrizione. Gli oggetti di forma cilindrica sono molto comuni negli avvistamenti, quindi il fatto strano di questa polverina che cascava era anche che si disintegrava, fra l'altro mi rivedevo al tocco, sì, pochi istanti dopo. Insomma, questi sono due casi di avvistamento UFO recenti. Ancora più recente uno durante l'esibizione delle frecce tricolore, ma insomma avremo senz'altro tempo di ritornare sugli avvistamenti futuri che ci saranno. Perché ci sono diverse persone esperte che bazzano queste parti. E infatti, vuole essere una specie di spoiler. È pericoloso, io te lo dico. Ma tuttavia, a proposito di UFO, avete presente quel tipico detto fiorentino, fa le cose a UFO? A UFO, sì, certo. Che vuol dire? Che vuol dire fare le cose a UFO? A gratis. Sì, sostanzialmente. In sostanza, sì. A gratis, ho fatto per nulla, insomma. Sì, esatto. Da dove deriva questo modo di dire? Qualcuno se l'ha chiesto? Io lo so. Ma lo dirò io, vaffanculo. Perché è la mia rubrica. Già quella prima, gli egizi non ce ne frega un cazzo, a noi è su Firenze, diciamo. Scherziamo. Ma uso a UFO è un modo di dire che vuol dire... ad usum florentine opere. Quando si stava costruendo il Duomo, era quello che si applicava sulle navi, sui carri o su alcuni pezzi di cose che venivano portati qua e là per andare a costruire questi pezzi di queste opere. Per esempio, a Milano si diceva a UFA, ad usum fabbriche ambrosiane, ambrosiane di Ambrogio, del Duomo di Ambrogio. Non ho capito come si collega a quella questione di a farlo a gratis. Cioè, fare perché questa roba, proprio perché erano per costruire duomi o roba simile, erano esentasse, erano gratuite queste cose. Perfetto. Grande. Quindi venivano trasportate a UFO. Perfetto. E ho detto tutto. Non può. Abbiamo anche scoperto che la sigla di X-Files è incredibilmente tamarra. Sì. Mai quanto Schumacher, ma insomma Schumacher song. Bene, direi che ti possiamo ringraziare a nome di tutta Radio Wombat. Ciao amici. Lazzi e entra Lazzi. Ce lo dici per bene il titolo, sai? Lazio, beh, non è facile nemmeno per me. Okay. Lazio entra a Lazio, questo è il titolo. Sì. Poi c'è il sottotitolo: Fatti, facce, faccende e facezzi da Firenze. Perfetto, almeno quando c'è un podcast non sbagliamo a scriverlo. Grazie ancora. Che sta succedendo? È una canzone? C'è stato uno switch. È una canzone. È un ottimo pezzo. La prima cicca me l'accendo all'alba. Faccio due tiri, sa di Jugoslavia. Esco di casa che ho bisogno d'aria. E cosa vuoi che ti dica? Vengo dal niente e voglio tutto. Vengo dal niente e voglio tutto. Vengo dal niente e voglio tutto. L'ultimo tiro e poi ti giuro che la butto. Milano sottomarino, mirano sotto al mirino e sparano bang. Più non ci sono più squadre, figli della pizza, lievito madre. Se avevo i soldi mica la facevo una vita da cani randagi. Siamo terroni che mangiano la cotoletta, sì, quanta saudaci, tanto autori in lutto, natura morta, forse risorge. Antonello venditi, manca un attino, nessuno se ne accorge. Giambellino, scendo sotto casa, faccio colazione con il ciambellino. Senza avere i soldi del tuo papparino, tiro e faccio i fumetti come Papperino. Per Venite ci guardano storto perché abbiamo facce tipo Sarajevo. Qualcuno si sta armando, ma armando chi? Boh, Sarajevo, musica pop, te la spiego. Ve lo lascia, lui va impara. E voi che ci cascate, mia gara. Vengo da niente, voglio tutto. Vengo da niente, voglio tutto. Vengo da niente, voglio tutto. L'ultimo tiro e poi ti giuro che la butto. Ti giuro che la butto. La prima cicca me l'accendo all'alba. Faccio due tiri, sa di Jugoslavia. Esco di casa che ho bisogno d'aria. E cosa vuoi che ti dica? Karma, karma, dopo la tempesta. Solo noi sappiamo quanto abbiamo corso. Gianna, Gianna aveva un coccodrillo sopra la maglietta che paga lo sponsor. Fuori dai confini americani, tentativi per entrare vani. Siamo messi che abbaiamo, insomma siamo messicani. Ti do un OCB così ti calmi e dopo non mi uccidi. Vuoi fare Ho Chi Minh, sì, ma Ho Chi Minh che dura 10.000. Le due parole che ho sentito più spesso qui. Sigaret, ascendi. Vengo da niente, voglio tutto. Vengo da niente, voglio tutto. Vengo da niente, voglio tutto. L'ultimo tiro e poi ti giuro che la butto. L'ultimo tiro e poi ti giuro che. L'ultimo tiro e poi ti giuro che. L'ultimo tiro e poi ti giuro che. L'ultimo tiro e poi ti giuro che la butto. Salve. Trap entrata qui. Della regia veramente in scivolata. Trap qui su Radio Wombat. Ma per i giovani. Questa era, questa era dedicata ai giovani. Certo. Sappiamo come conquistarli. Politrap. Perché veniamo dal niente e vogliamo tutto. Non dimentichiamocelo mai. Ma che bella canzone che c'è sotto. Vero? Cos'è? Patti Smith. Patti Smith. Che coverizza Nirvana. Opa. Opa. Quante cose belle, Wombat ragazzi, combo. Oggi siamo molto contenti. Allora, il mio compare qui di banco, Tuco, è tutto agitato, tutto frilluzzante. È pronto per qualcosa, vero? Io sono pronto per qualcosa. Tutto scimmiato, qualcosa... senti, mamma mia. E... sono illazioni che non accetto. Ok, scusami. Allora, siamo arrivati al momento di raccontare ciò che avviene in settimana in città. Sì. Vero? La classica rassegna eventi che facciamo. La classica rassegna eventi. A fine puntata ogni lunedì. Exactly, che è bella corposa. Sì. Però per completezza di informazione noi andiamo ad esplicare tutta la settimana. Sempre eventi selezionati che ci piacciono, autogestiti, nei posti e nei luoghi che confanno a Radio Womba. Esattamente, partiamo immediatamente con una bellissima iniziativa che c'è stasera. Lunedì 26 appunto. Sì. Allo studentato autogestito di Ponte di Mezzo. Che è molto bellina perché... Porta un libro? Esattamente, porta un libro e ti offriamo da mangiare, ti offriamo l'aperitivo. E quindi è molto carina per ampliare la biblioteca autogestita dello studentato. E infatti se si portano manuali di liceo, di università, appunti universitari e scolastici o saggi, insomma, meglio, ben accetti. Poi se porti anche un romanzo va bene, però, certo, però essendo uno studentato si predilige quella tipologia di libri. A meno che non sia un romanzo di Moce, in quel caso la scena della fine non è addosso, probabilmente non puoi uscire, prego. Sì. Quindi molto bellina, molto carina, sì, come stasera non perdetevela. C'è un salto, no? C'è un saltino. Dimmi, scusa. No, no, questo c'è un, volevo dire, c'è un salto. Ah, infatti, facciamo un salto. Siamo in sintonia. Mercoledì riposo. Giovedì 30 invece è un casino. È un casino. Giovedì 30 è un casino, raga. Nel senso che come avevamo detto settimana scorsa, in modo anche abbastanza ampio, alle 15 in via Cavour numero 1, davanti alla sede della città metropolitana, ci sarà il presidio annunciato appunto la settimana scorsa contro la vendita di Mondeggi Fattoria Senza Padroni. Tutti presenti? Tutti, assolutamente. Questo appunto si è detto giovedì 30 novembre alle ore 15. Successivamente dalle 18.30 in polveriera ci sarà la presentazione del laboratorio teatrale, che poi si svolgerà dal giovedì successivo in poi per sempre, mettiamola così, per sempre, ogni giovedì sarà. E alle 18.30 in polveriera potete andare a vedere com'è, a iscrivervi e a capire un po' cosa succederà. Basta una mail per iscriversi, anche sulla pagina della polveriera trovate tutte le indicazioni necessarie. Bene. Pochissimo dopo partirà, come abbiamo detto pochi minuti fa, la Critical Mass del mese di novembre. Parte da ripetiamo che parte da Santissima Annunziata. Sì. E casualmente tutti lì. Casualmente tutti lì. E termina. Come si è già detto, tipo mezz'ora fa. Allora, diciamo tutto in polveriera. In polveriera. Dove ci saranno cioccolata calda e vin brûlé ad aspettare i... Torte e lotterie. Borda. Popo. Tutto. Offerta completa. Quindi è una giornata lunga che parte alle 15 dal presidio importantissimo in via Cavour, numero 1, contro la vendita di Mondeggi. Prosegue con la presentazione del teatro in polveriera. Con la Critical Mass, che poi finirà sempre in polveriera. Quindi se rimanete in zona centro, in zona di qua d'Arno, insomma, ci sono tante cose da fare. Allora passiamo invece a venerdì primo novembre, sì. dicembre, perché si scala a dicembre, sì, va così, e, sì. Dica sì, funziona così. Funziona così, ancora? Sì. Bene, venerdì 1 un bel evento al centro sociale autogestito Next Emerson. Sì, sì, verrà presentata la Scarceranda, che è la Scarceranda 2018, che è l'agenda annuale autoprodotta da Radio Onda Rossa, che da Roma la viene appunto a presentare al Next Emerson dalle 21 in poi. Quindi bella occasione per ritrovarsi e per vedere questa agenda, che appunto autoprodotta viene poi distribuita anche nei carceri, l'agenda anticarceraria. Sì, gratuitamente, fra l'altro, per ogni carcerato che ne faccia richiesta è sì. possibile che abbia una copia. Ci sono dentro, fra l'altro, ricette per il carcere da farsi soltanto col materiale del carcere, disegni, poesie, contributi scritti di vario tipo. Esatto. Viva Scarcerando. Viva Scarcerando e viva Onda Rossa, ai nostri colleghi che vengono a trovarci. Dica, vuole isto. Poi chiaramente dopo a seguire c'è musica. Sì. Chi c'è? Atelier MTK. Sono musica. No, installazioni video. Sì, sì. Sì. Un collettivo di. Che lavora sulla pellicola. Di Grenoble sono. Sono di Grenoble e 70 FPS. Le France. Che è un altro gruppo che fanno una performance live, che sono napoletani, e fanno una performance live di appunto di rielaborazione, se non sbaglio, vai rielaborazione, difficilissimo, sì, usando pellicole di cinema, quindi estratti di pellicole, sì, ritrovate, rimesso a mano, fanno un bel collagione musicato, a quanto ne so, sì Sì, con interventi in diretta proprio sulle pellicole. Cioè, roba che ogni tanto, che solitamente queste cose le vedi nei centri di arte contemporanea, tipo, e se la menano tutti. All'Emerson ci saranno cose del genere gratis, quindi... Quindi vola tutto. Ma per la gioia di Kav-Kav, a chiudere la serata ci sono i Gargamella. Gargamella. Gargamella. Evviva. Evviva Gargamella. Quindi... tutto questo, tutto questo all'Emerson. Nel frattempo, nella città continua a succedere altre cose. Ci sarà l'inaugurazione della palestra popolare. Dove? Allo Spazio Yam. Allo Spazio Yam. Esattamente. In via Baracca. Sì, in via Baracca. Ci sarà una cena di autofinanziamento appunto per la nascita di questa nuova palestra popolare. E c'è sempre bisogno di questo tipo di palestre che facciano fare attività sportiva e quindi direttamente sociale, gratuita e negli spazi sociali della città. Quindi cena autofinanziamento con polentata con salsiccia e funghi. Buona. Leggerina. E la palestra sarà intitolata Enrico Gogo Rigacci. Rigacci, che era un ragazzo partigiano della SAP dell'Olmatello, ucciso dai nazisti alla vigilia della liberazione di Firenze, che è avvenuta l'8 agosto del 44. Okay. Sempre in concomitanza ci sono tante cose. Allo Spazio Inchiostro ci sarà una cena, sempre un'altra cena di autofinanziamento, quindi smezzatevi un po' le vostre famiglie, andate mezzo da una parte e mezzo dall'altra, così sostenete tutti. Una cena di autofinanziamento per la rivista Per un'altra città. Quindi anche molto importante la rivista, ogni tanto facciamo riferimento, vi ricordiamo, curata dalla Città Invisibile, e quindi andate a quindi l'appuntamento è appunto esattamente via degli Orfani. Ore 20, 21 sì. E venerdì 1 dicembre ore 20, vi ricordiamo il Spazio Inchiostro in via degli Alfani 49, e poi per, chiaramente per tutte quelle info e prenotazioni varie andate a cercarvi la pagina o per un'altra città che ha gmail.com. Sabato 2, giornata piena, un'altra giornata piena, è un fine settimana, parte dal giovedì, arriva al sabato e sempre a giro. Allora, si può fare cose la mattina, si parte la mattina dalle 10 di mattina. Allora, dalle 10 dici. Dalle 10 la mattina ci sarà l'SMS di Rifredi. Ci sarà l'Assemblea Federalista Popolare promossa dall'OPG. Ex OPG, Yeso Pazze, Clash City Workers. In vista dell'appunto della creazione di una lista popolare Potere al popolo. Con il sottonome di Potere al Popolo. Nelle ultime, anche qui ci sarebbe un po' da parlarne, ma noi siamo un po' stretti, quindi potete andarvi a cercare un sacco di informazioni che ci sono. Sì, forse anche presto per parlare online. Sì, a proposito di radio, fra l'altro, volendone dare una, su Radio Onda d'Urto c'è un'intervista interessante registrata la scorsa settimana. Perfetto. Allo Yeso Pazze, in cui sono state poste anche delle domande spinose sulla questione della rappresentanza. Io mi permetto di consigliare. Grazie, bravissimo. Perché infatti noi ora non sappiamo ancora cosa sarà questa lista di Potere al Popolo, sappiamo un po' chi partecipa e comunque come radio cittadina terremo semplicemente informati su quello che accadrà, cercheremo di riportare magari anche qualche contenuto, cercheremo anche di capire direttamente cosa si sta muovendo, perché quando comunque si muove qualcosa dal basso ci interessa. Allo Wombat interessa. Esatto. Allora, dopodiché, dopo l'assemblea, Piazza Stazione, ritrovo, dove ci saremo anche noi. Sì, la grande delegazione era di Wombat. Sì. Seguirà, e appunto. Parte la manifestazione alle ore 15, appunto, alla Piazza della Stazione. Che manifestazione? Cosa più importante? Secondo te? È la manifestazione contro il tunnel TAV, contro l'aeroporto e contro l'inceneritore. Esatto, le tre grandi opere, insomma. Le tre grandi opere saranno riconsegnati, questi tre pacchi di Natale, al mittente. Esatto, quindi ci sarà... No, non lo so, leggiamo il comunicato, vuoi leggere il comunicato? Sì. Di questa... l'appello a questa manifestazione, che comunque appunto eseguiremo con Radio Wombat, con interviste e forse anche con una diretta telefonica, nel senso ci sentiremo in diretta con la redazione di Radio Wombat, quindi a prendere qualche voce che sarà al corteo. In diretta. Prego, chi noi? Personalmente forse non io e te, ma Wombat, ci sarà il Wombat Radio Wombat supremo. Dovrebbe essere in diretta. Esatto, in diretta, andare in diretta, avere una trasmissione che va in diretta con dei collegamenti telefonici con chi parteciperà alla manifestazione. Va bene. Questo, allora, il 2 dicembre restituiamo i pacchi a tutte le forze politiche, governi e amministrazioni che le hanno sostenute o ancora le sostengono, a partire dal PD di Renzi, Rossi e Nardella. Negli ultimi due anni molte cose sono accadute. I tre più grandi progetti inutili e dannosi previsti per Firenze e La Piana sono stati stoppati e rinviati alla tenacia degli abitanti, che, con i ricorsi e le diverse mobilitazioni, hanno saputo esercitare la propria pressione politica su scelte e programmi per il territorio che sembravano già imposti. Il TAR tiene ancora fermo l'inceneritore. L'aeroporto avrà bisogno di una nuova via. Il sotto attraversamento TAV aspetta da anni le nuove disposizioni sulle terre di scavo. Per queste opere, governo, regione e città metropolitana lavorano in silenzio, usciti dai riflettori e dalle contestazioni delle ultime due estati. L'estate 2016, quella delle grandi manifestazioni, del 14 maggio a cui seguirono le camminate sui terreni, la piantumazione degli alberi per il Parco della Piana, i blocchi contro le trivellazioni e l'insediamento del presidio No Inch, No Aeroporto, allo Smannoro. L'estate 2017, aperta a suon di rock contro gli ecomostri, e noi c'eravamo, è proseguita con la sorveglianza popolare sui terreni, l'opposizione alle leggi sblocca opere, il blocco dei carotaggi e la nascita nei quartieri fiorentini di nuove lotte in difesa degli alberi che da Rifredi hanno alzato la testa contro l'arroganza del modello Nardella. Nuove scadenze si avvicinano ed è importante tenere la luce accesa e l'attenzione. Il 19 dicembre avrà inizio la discussione del Consiglio di Stato richiesta dall'ERA sull'inceneritore dopo lo stop del TAR, per la quale si avrà una risposta nei primi giorni del 2018. Vado avanti? Come vuoi, se no possiamo linkeremo nel podcast anche tutto il comunicato, se vogliamo, non lo so, sì, facciamo così. E un'altra cosa importante da dire è che noi volevamo intervistare qualcuno che direttamente che parlasse della manifestazione e dei temi, ma è andato in onda due ore prima dell'inizio di Fuoco alle Polveri, come tutti ovviamente avete sentito. Quindi potrete cercare sul podcast di Radio Wombat l'ultima puntata di Passaggio a Nord-Ovest. Esattamente. E godervi un'intervista che sicuramente sarà... Lunga. Più approfondita molto anche più di quello che se non sbaglio addirittura è partita dalla puntata di settimana scorsa, quindi ascoltatevi tutti e due podcast e sarà bellissimo. E sabato arriverete con tutte le informazioni e tutta anche la determinazione che portano questi temi, perché sono robe abbastanza importanti, insomma. Quindi sabato 2 dicembre ore 15 in Piazza Stazione parte la manifestazione che va a restituire questi pacchi. Esatto. Dopodiché, per i più volenterosi, si continua in polveriera. Naturalmente. Dove il coordinamento anarchico e libertario di Firenze organizza un dibattito su migrazioni, profughi e lotta per la casa. Con la presenza di chi ha vissuto l'esperienza migratoria e con la partecipazione del movimento di lotta per la casa. Quindi, e poi musica? Sì, dalle 20. Cioè la pericina sociale. Cosa? No, non l'ho fatto casino io al microfono. Dalle 20 a pericena sociale a prezzi popolari. Alle 21 concerto con gli Etrurians. Etrurians. Ok, ci possiamo fermare, direi, a questo punto. Poi sicuramente la settimana prossima riaggiorneremo sia su come sono andate queste cose a cui parteciperemo, soprattutto direi Critical Mass, il presidio di Mondeggi e la manifestazione di sabato. Sono un po' senza nulla togliere ovviamente anche all'Assemblea di Potere al Popolo, però sul territorio sono mobilitazioni, soprattutto insomma sono mobilitazioni molto importanti, avvengono per l'appunto a distanza un giorno uno dall'altro, ma che cercheremo di seguire. Assolutamente. Certamente. Mandate una mandiamo canzoncina, un pezzo. Io sì, sono contrario a questo pezzo, lo voglio dire pubblicamente. Bene. Ma vabbè, non stavo richiesto. Sei forse l'unico. Penso apparentemente sì, in questa regia. Quindi bene, tenete. Non lo annuncia neanche, oh. una pistola che scivoli dal fianco e che si infili sotto il banco. Nell'ora di intervallo provocare un bel macello, altro che merendine, lì si spara sul bidello. Ieri son Topolino, compito è l'uomo ragno, maldito è l'ispettore, la 44 Magnum. Legittima difesa, il colpo accidentale, sono storie ormai passate e rientra nel normale. Mamma mia, le 100 lire adesso devi dargli, guardo per l'America perché voglio armarmi con le armi, voglio armarmi. Può bere birra, tanto meno una cannetta, ma sei considerato se sai usare la beretta. La libertà è una statua, con cura fu innalzata, tentando di nascondere un'America malata. Ma il loro pezzo forte, lo è sempre stato, la pena capitale in assenza di reato. Puoi scegliere lo stato, modalità anche l'uso, stai certo il risultato, non ti lascerà deluso. Mamma mia, le 100 lire adesso devi darmi, parto per l'America perché voglio armarmi con le armi, voglio armarmi. Per svegliarmi, spero che sia un incubo perché voglio armarmi con le armi, voglio armarmi. Tutti hanno un cannone che fa sentir signori, ma l'idea che mi son fatto è che sono tutti fuori. My right hand. Viva! Anche Carlino. Sì. Okay. Allora sì, abbiamo concluso ormai, anche oggi. Sì, anche oggi abbiamo portato a casa. Sì, la baracca, abbiamo fatto crollare, ficcato. Abbiamo tenuto in piedi. Il, due cose da ricordare. Uno, beh, non ci sentiamo nel prossimo, bla bla bla. L'altro, appunto, i podcast. Se trovate sia il nostro podcast su Radio Wombat, da dove state ascoltando tutto ciò, ma ricordatevi anche di Passaggio Nord Ovest, le ultime due puntate ve le ascoltate in vista della manifestazione del 2. Gli appuntamenti li abbiamo già ricordati tutti da giovedì a da oggi, anche da, sì, da stasera, per tutta la settimana. Le mobilitazioni abbiamo parlato, ci vediamo a giro probabilmente. Mail di contatto, come sempre. Vai. Non me la ricordo mai. Posta Wombat, @insiberia.net. Vai, eccola. Quindi se volete scrivere quella lì. Che c'è da dire? Beh, che se non ci si vede a giro nella prossima settimana, e nel caso sarà perché voi non siete a giro e quindi shame on you. Sì. Alla peggio ci sentiamo lunedì prossimo. Male che vada. 16:30. Sì. Più o meno puntuali, come sì, tutti i lunedì, fuoco alle polveri. 16:40. Ma voi fate anche 16:20. Noi ci proveremo, sì, a essere puntuali. Esatto. Probabilmente non ci riusciremo, ma chissà. E vabbè, dai. Grazie a tutti. Ci siamo migliorati, insomma. Abbiamo fatto solo 10 minuti, quindi sì, andiamo fatto, sempre fatto, a perfezionarci. Sempre meglio. Bene. Grazie a tutti. Ci sentiamo lunedì prossimo. Ci vediamo in piazza. Ciao. Sempre solo Wombat. Wombat. Che mi dice dell'ordinamento sociale, del governo? No, non ce n'è nessun bisogno. Quindi non avete leggi? Niente leggi, niente avvocati. Come distinguete il bene dal male? Ogni creatura dell'universo distingue il bene dal male. Ma se per caso ammettiamo che qualcuno facesse qualcosa di sbagliato, commettesse un omicidio o uno stupro, come verrebbe punito? Le voglio dire una cosa, Mark. Voi umani La maggior parte di voi approva questa politica dell'occhio per occhio, vita per la vita, che è conosciuta in tutto l'universo per la sua stupidità. Anche i vostri Buddha e Cristo avevano una visione diversa, ma nessuno ha prestato loro molta attenzione, neppure i buddisti e i cristiani. Voi umani, talvolta è difficile capire come abbiate potuto sopravvivere. Fuoco alle polveri. Go Halle Paul Berry Radio Bomba.